Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ho attraversato la vita inferiore, seguendo linee per moto contrario, sfruttando per le... Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, l'etica del vivere quotidiano dal punto di vista di tutti gli animali, umani e no. Contro le mie inclinazioni. Scogliere lontane spezzano ogni forza e mille spume. È la puntata numero 590 che dedichiamo a Franco Battiato, il musicista siciliano scomparso nei giorni scorsi, un uomo sensibile alla questione animale. Alcuni anni fa, poco prima che si allontanasse dalle scene, il nostro Giuseppe Coco, concittadino e amico di Battiato, realizzò con lui una breve intervista che riproponiamo nel corso di questa puntata. Giuseppe oggi cura anche la nostra colonna sonora in un doveroso omaggio al maestro catanese. Parleremo anche di mare, di allevamenti pseudosostenibili, dei nuovi dati sulla scelta vegetariana e vegana compiuta dagli italiani. Ponimi come un sigillo sul tuo cuore, così resterò impresso in te. Poi sfioravi il glande, i sensi celebravano il loro splendore. Ed era bello starti ad osservare. Franco Battiato è stato un musicista dalle molte vite, un intellettuale aperto e sensibile, attento a prospettive filosofiche ed esistenziali non ortodosse. Perciò non sorprende che avesse un'attenzione particolare per la vita animale, che ha avuto uno spazio nel suo sguardo sul mondo. Sentiamo Battiato in un'intervista telefonica di Giuseppe Coco, risalente al novembre del 2015. Vivo come un cammello in una grondaia, in questa illustre ed onorata società. E ancora sto aspettando un'ottima occasione. In un'intervista dichiari che gli animali vanno rispettati perché sono reincarnazioni umane. Puoi spiegare meglio questo concetto? Beh, è una verità, è una realtà, capito? Se uno toglie il velo che hanno alcuni, come una specie di cataratta, no? E tu vai a guardare un cane o un gatto, hanno anche le scimmie, hanno occhi umani, sono umani. Si sono reincarnati, purtroppo, e si soffre un po' di più. In quest'epoca di scarsa intelligenza d'alta evoluzione, qualche scemo crede ancora che veniamo dalle scimmie. È il sole soltanto una palla di fuoco e non si sono accorti che è una tappa di una forma di energia. Quindi, diciamo, il mondo umano lo possiamo considerare meglio di quello animale oppure differente? Non è detto. Una volta in via Etnea, quando avevo la casa a Catania, no? C'era un lupo seduto con una specie di viandante, insomma, no? Che cercava di raccogliere qualche soldo. Dei due io avrei preferito quel cane, e quindi probabilmente in una prossima reincarnazione è meglio del suo padrone. E le lucertole attraversano la strada. Com'è diverso e uguale il loro mondo dal mio. Quante lucertole attraversano la strada, com'è diverso e uguale il loro mondo dal mio. E questo è così. perché si striscia per terra. Sono uno di quelli che quando mi faccio le passeggiate nel mio territorio, insomma, no? Soprattutto dove sono piastrellati, insomma, diciamo così, faccio attenzione a non calpestare le formiche. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Gli uccelli, le traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Cosa sono? Sono certe cose mancano agli uomini, perché il volo è una roba straordinaria. Non è che la reincarnazione per forza deve essere come punitiva, no? Ma l'idea che questi viaggiano in aria, che sono fantastici. Volo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni. Una delle tue canzoni più belle è L'animale, con questa frase che ho sempre dato diverse interpretazioni io, per cui ne approfitto e te lo chiedo. L'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice. Che animale è? È l'animalità? Che cos'è questo animale? L'animalità fa parte dell'individuo umano, è così. Allora, chi a poco si sgancia dagli attaccamenti, che in qualche modo comincia a diventare un essere degno di questo nome, e quindi quelli sono il vero spirito, ecco. Raggiungeremo la completezza, la via della vita e trasformazione, il bene e il migliore dei giudici. Finiamo con una citazione di una tua canzone nuova, che è questa maxi raccolta. Raggiungeremo la completezza, la via della vita e trasformazione, il bene. Sì, ma quindi non hai sentito il primo? No, ma lo stai usando come una tecnica. Come una tecnica, sì. Il bene è il migliore dei giudici. Quale tipo di bene, come miglior giudice, vedi te? Beh, sai, negli ultimi anni di questa mia vita esistenziale, insomma, no? A poco ho cambiato prospettiva, al di là del fatto che non ho attaccamenti, quindi non mi metterei più a criticare, come dire, se potessi aiutare qualcuno ancora di più, come faccio certe volte per alcune cose, è determinante. Tutto l'universo obbedisce all'amore, come puoi tenere nascosto un amore? Gli animali in questo bene dove stanno? Beh, sai, non sono facili, cioè quando si parla di libero arbitrio non è facile individuare, è una cosa difficile, credo che ci siano degli animali che possono essere anche superiori agli uomini in certi casi. Bene. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar, ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones, perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. Come ogni anno, la pubblicazione del rapporto Italia curato dall'Eurispes consente di stimare la diffusione nel nostro paese dell'alimentazione vegetariana e vegana. Secondo il rapporto 2021, la scelta veg riguarda l'8,2% della popolazione, quindi oltre 4 milioni di persone. L'anno scorso il rilevamento attestava qualche punto in più, l'8,9%, con una oscillazione che si giustifica con il sistema di rilevamento che si basa sulle dichiarazioni delle persone coinvolte di anno in anno nel campione esaminato. Una certa variabilità è quindi attesa. Siamo tuttavia su livelli ormai piuttosto stabilizzati, visto che la media dal 2014 a oggi è del 7,5%. Secondo il rilevamento di quest'anno, il 23,1% di quanti si dichiarano vegetariani o vegani giustifica questa scelta dicendo che si inserisce in una più ampia filosofia di vita, che non si esaurisce nell'amore verso gli animali, ma abbraccia una volontà più ampia di prendersi cura del mondo in cui viviamo. Un altro 20,7% invece parla direttamente di una scelta compiuta per rispetto nei confronti della vita animale. Per il 21,3%, la decisione si configura come salutista, in una ricerca del proprio benessere psicofisico. Un altro tema sul quale si sono concentrati i ricercatori di Eurispes è l'opinione degli intervistati rispetto alla sperimentazione animale. Resta molto alta la percentuale dei contrari. La sperimentazione in laboratorio su animali vivi è ritenuta inaccettabile dal 78,9% degli intervistati. Una percentuale inferiore rispetto all'80,7% del 2016, ma sempre molto, molto elevata. Fu nefasta e temibile l'età del tempo, di profonda e irrimediabile povertà, quando ancora non si distingueva l'aurora dal tramonto, quando l'aria della prima origine, mischiata a torbida e instabile umidità, al fuoco ed alla furia dei venti, celava il cielo e gli astri. Come può la vista sopportare l'uccisione di esseri che vengono sgozzati e fatti a pezzi? Non ripugna il gusto per me, gli umori e il sangue, le carni agli spiedi crude. E c'era come un suono di vacche. Non è mostruoso desiderare di cibarsi di un essere che ancora emette suoni. Sopravvivono i riti di sarcofagi e cannibalismo, cannibalismo. Sopravvivono i riti di sarcofagi e cannibalismo. il surriscaldamento del pianeta è anche, se non soprattutto, un surriscaldamento dei mari, in uno scambio che ha innescato una spirale che non sarà facile interrompere. L'ultimo allarme ci riguarda da vicino. Arriva da Greenpeace, dal suo progetto Mare Caldo, una ricerca in corso da un anno nel mare Mediterraneo, quindi nelle nostre acque. Lo studio concerne 8 aree marine protette ed è condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova. Le cifre del riscaldamento sono preoccupanti. Le temperature superficiali del mare sono cresciute negli ultimi 40 anni di ben 1,7-1,8 gradi nelle acque di Portofino e dell'Isola d'Elba. In queste due zone, tramite sensori posti in mare fino a 40 metri di profondità, il progetto Mare Caldo ha rilevato come il calore superficiale si trasferisca lungo tutta la colonna d'acqua. L'estate scorsa, in giugno e in agosto, due ondate di calore hanno causato un aumento repentino delle temperature, arrivate a 20 gradi, perfino a 20-25 metri di profondità. Questo riscaldamento ha ovviamente conseguenze dirette sulla vita marina. Sono stati osservati infatti fenomeni di mortalità su colonie animali e su organismi vegetali. Le gorgonie sono fra le specie più sensibili. All'isola d'Elba fra il 20 e il 30% delle colonie monitorate di gorgonie bianche e gialle presentava segni di necrosi. L'aumento della temperatura sta inoltre mettendo a rischio la biodiversità locale, favorendo sia l'espansione di specie aliene, come l'alga Caulerpa cilindracea, a scapito delle specie native, sia l'insediamento di specie termofile, un tempo confinate a latitudini inferiori. Sono cambiamenti che non promettono niente di buono. Fornicammo mentre i fiori si schiudevano. Al mattino e di noi prendemmo piacere. Sì, l'un l'altro. Mia mente andava, seguiva le orme delle cose che pensava. Una canzoncina ardita mi premeva le ossa del costato. E il desiderio di tenere le tue tenere dita. Vorrei tra giaculatori e diversi spirare e rosari composti di spicchi d'arancia e l'aria del mare e l'aria del mare e l'odore marcio di un vecchio porto. E come pesce putrefatto putrefare. Abbiamo parlato più volte del peso degli allevamenti intensivi di animali nei processi di degradazione ambientale. Gli allevamenti inquinano, sono energivori, consumano enormi quantità di acqua, oltre a essere un inferno per gli animali che sono costretti a passarvi la loro breve non vita in attesa di entrare in un macello. Ora che l'emergenza climatica ha messo a fuoco tale nocività e mentre gli scienziati chiedono una rapida riduzione di queste terrificanti strutture, i produttori stanno mettendo a fuoco una risposta che cerca di muoversi nella direzione delle nuove parole d'ordine che il sistema economico dominante ha preso dal lessico ecologista. Si parla dunque di allevamenti sostenibili. Sentiamo che ne dice Francesco Panier, giornalista esperto di questioni ambientali, curatore per noi della rubrica Lessico dell'Antropocene. Forse non molti di noi hanno fatto caso a come l'industria italiana della carne si stia organizzando per tentare di arginare numerosi attacchi delle associazioni animaliste e ambientaliste. In particolare, siccome il piano del discorso cade di continuo sugli impatti ambientali dell'allevamento, le imprese e le organizzazioni di categoria spendono molte energie nel tentativo di costruire una contronarrazione. Se volete averne un assaggio, andate sul sito del portale Carni Sostenibili, che racchiude un campionario di risposte per i critici. Sponsor del sito sono Assocarni, Assica e Una Italia, associazioni di categoria che radunano gran parte dei player dell'industria della carne. La zootecnia industriale è criticata dagli ambientalisti perché fonte di gas serra, inquinamento dei suoli e dell'aria. Il metano emesso dagli animali ammassati nei capannoni è infatti un potente clima alterante. Ma Carni Sostenibili ribatte che il metano si concentra in atmosfera solo per una decina d'anni, mentre l'anidride carbonica ci rimane per molto più tempo. Quindi è inutile e pretestuoso accusare la carne di impatti ambientali quando il problema è altrove. Allora proviamo per un attimo a scendere su questo piano di discussione, proviamo a fingere che l'orrore di una pratica sanguinaria, violenta e coercitiva non sia la vera questione di cui discutere. Del resto sembra un tabù per gli stessi ambientalisti. Se anche volessimo disquisire delle emissioni di metano, dicevamo, avremmo comunque buone risposte da dare agli industriali della carne. Infatti, sebbene la presenza in atmosfera del metano sia più breve di quella dell'anidride carbonica, il suo contributo al riscaldamento globale è 28 volte maggiore in un lasso di tempo di un secolo. Come dicono i lobbisti della carne, però, la molecola di metano degrada molto prima di un secolo. Ma se accorciamo i tempi, il dato è ancora peggiore. Nei primi 20 anni dall'emissione, scopriremo, il metano ha infatti un potenziale di riscaldamento globale 86 volte superiore alla CO2, un vero e proprio disastro per il clima. Inoltre, l'allevamento è fonte del 95% delle emissioni di ammoniaca, che hanno meno a che fare con il clima, ma sono molto collegate alla qualità dell'aria. L'ammoniaca dei liquami è infatti un precursore del particolato atmosferico. In sostanza, quando finisce in aria, innesca reazioni chimiche che danno origine alle polveri sottili tipiche dello smog, PM10 e PM2.5. Insomma, anche a voler fingere che sia soltanto una questione di emissioni, giocare con i numeri non aiuta gli impresari a cambiare la realtà. Era la più grassa puttana che mai avessi visto. La donna più grassa che avessi guardato. Aveva un vestito di seta cangiante, perline al collo, un ventaglio di struzzo, mani delicate. Uno le disse: schifosa montagna di grasso, rise di meno il corpo, come a dire sì, o buon Gesù, certo sì. Farlo con te non deve essere comodo, sei grassa come tre. E invece no, invece mi dicono che bel posto hai, sei più bella di Marilyn o di Evelyn, non ricordo più. Rise di meno il capo, farfugliò qualcosa. Come la colonna sonora di questa puntata, così lo spazio etico gastronomico di oggi è dedicato alla figura di Franco Battiato. Gabriele Palloni ci propone una ricetta della città di Catania. Ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La dispensa di oggi non poteva che offrirci un doveroso omaggio al maestro Battiato con una ricetta della cucina povera siciliana, il macco di fave, pietanza tipica nel catanese per la festa di San Giuseppe. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di fave secche decorticate, una cipolla dorata, una carota, una costa di sedano, un mazzetto di finocchietto selvatico, un rametto di rosmarino, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, sale e pepe. Lavate le fave secche e lasciatele in ammollo per 2 ore in acqua fredda. A parte, tritate la cipolla, la carota, il sedano e mettete in un tegame assieme ad un bicchiere di acqua. Quando il liquido sarà completamente assorbito, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e fate rosolare per 5 minuti. Aggiungete l'aglio in camicia, il finocchietto selvatico e il rosmarino tritati finemente e successivamente le fave ben scolate. Fate rosolare per qualche minuto, togliete l'aglio e portate a cottura coprendo con acqua o brodo vegetale fino ad ottenere una crema densa. Se necessario aggiungete altra acqua o brodo vegetale. Togliete dal fuoco e lasciate riposare per qualche minuto prima di servire. Portate in tavola con un filo d'olio a crudo ed una macinata di pepe nero. In alternativa potete servire il macco di fave aggiungendo degli spaghetti spezzati a fine cottura, oppure arricchirlo con bietole o tenerumi scottati e saltati in padella. In 1945 I came to this. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti, e avevo gli occhi gonfi di stupore nel sentire il cielo azzurro appare limpido e regale. Il cielo a volte invece ha qualche cosa di infernale. Strani giorni, viviamo strani giorni. Chissà com'erano allora il Rio delle Amazzoni ed Alessandria la Grande e le preghiere in l'amore. Chissà com'era il colore you look at the hands, not at the face. If you want to stay out of trouble. Mi lambivano suoni che coprirono rabbie e vendette di uomini con clave, ma anche battaglie e massacri di uomini civili. L'uomo neozoico dell'era quaternaria. Strani giorni. Chiudiamo con una buona notizia dal mondo della moda, che a passi sempre più decisi si sta allontanando dal necrofilo uso di pellicce di animali. Un nuovo stilista si aggiunge alla lista delle case di moda che mettono al bando le pellicce. È Valentino, che sarà fur free dal 2022. Alla buon'ora. Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Gianluca Masala, Anna Granata, Francesca De Matteis, Roberta Malino, Camilla Lattanzi, Francesco Panier, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la puntata numero 591 è fra 7 giorni, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.